Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Al via il G7 di Taormina, terrorismo, immigrazione, clima al centro del vertice, il summit più difficile, dice Tusk, l'Europa lavora per l'unità. Attacco ad un bus di cristiani in Egitto, almeno 23 le vittime e 25 i feriti. Prima di Pasqua c'erano stati altri due attentati contro la comunità copta. È morta la stilista Laura Biagiotti, la sua griffa fu la prima a sbarcare in Cina, ieri il malore e la dichiarazione di morte cerebrale. Nelle Marche, un bambino di 7 anni in coma per un'otite, non prendeva antibiotici da 4 anni, dicono i genitori, curato con l'omeopatia. Voucher, maggioranza pronta a ritirare l'emendamento, Camusso attacca, se verranno reintrodotti ricorreremo alla Consulta. Notte tranquilla per Valentino Rossi dopo l'incidente, un fine settimana di attesa per l'addio di Totti al calcio giocato. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, e c'è anche la nostra pagina Facebook dalla quale, come ogni giorno, anche oggi, andiamo in diretta a www.facebook.com/effettogiorno. Vi ricordo che è venerdì e quindi tra i vari argomenti che toccheremo, come promesso, ci saranno anche le ricerche di Igor il Russo nelle pianure del Ferrarese. In apertura però andiamo ai lavori del G7 che si apre a Taormina, un punto generale con Elisabetta Fiorito, inviata a Taormina. Elisabetta, buongiorno. Buongiorno Simone, la cartolina del G7 è sicuramente la foto che apre il vertice, i leader appaiono insieme dietro la splendida cornice del Teatro Greco di Taormina. Sullo sfondo, dietro la schienella, antico palcoscenico, il mare di Sicilia. Accanto l'uno all'altro i veri contendenti del summit, il presidente statunitense Donald Trump e la cancelliera tedesca Angela Merkel. Per il premier Paolo Gentiloni non sarà facile, ma chiediamo decisioni. Allora sentiamo il presidente del Consiglio. Sul terrorismo e la sicurezza innanzitutto faremo una dichiarazione importante oggi qui a Taormina. Sul cambiamento climatico, sui grandi flussi migratori, sul commercio mondiale da cui dipendono tanti posti di lavoro e la prospettiva delle nostre economie. Quindi al G7 chiediamo risultati, sappiamo non sarà un confronto semplice, ma lo spirito di Taormina ci può aiutare nella direzione giusta. Dopo la foto simbolo, passeggiata dei sette per le strade di Taormina, Frau Merkel insieme a Gentiloni, al presidente francese Emmanuel Macron e la premier britannica Theresa May, che si intratterrà solo oggi per tornare subito a Londra dopo l'attentato di Manchester. Manca Trump per motivi di sicurezza, che raggiunge gli altri sul Belvedere. E c'è anche un passaggio delle frecce tricolore sul cielo un po' velato di Taormina. Secondo fonti dell'Eliseo, il governo italiano continua a lavorare sulla bozza finale. Ci sono ancora discussioni aperte su terrorismo, clima, commercio e profughi. A te Simone. Grazie dunque ad Elisabetta Fiorito per questo quadro generale. Andiamo al quadro invece per quanto riguarda l'Europa. Le dichiarazioni di questa mattina, oltre a quella di Gentiloni, sono state di Tusk e di Juncker. Facciamo il punto anche su questo con Sergio Nava, anche lui inviato a Taormina. Sergio. Sì, buongiorno Simone. Una sola conferenza stampa, lo dicevi tu ad ora, prima dell'avvio dei lavori della G7, nello specifico quella dell'Unione Europea con il presidente Tusk e il presidente della Commissione Juncker. Sentiamo subito cosa ha detto Tusk. There's no doubt that this will be the most challenging G7 summit in years. Il summit più impegnativo degli ultimi anni, così Tusk ha definito il G7. Tusk ha aggiunto che l'Europa lavorerà per l'unità e per trovare un'intesa sulle questioni più importanti. Ottimismo europeo per l'unità di vedute sulla crisi ucraina con la nuova amministrazione americana. Unità tutt'altro che scontata, considerati i legami dell'entourage di Trump con Mosca. Mentre sui temi cardine, quali migranti, clima e commercio, l'Europa si affida più alla speranza di compattare il fronte transatlantico che non ha concrete convinzioni che un'intesa sia davvero alla portata. La preoccupazione sul clima anche al centro dell'intervento di Juncker. Sentiamo. As far as climate is concerned, we'll discuss with our American and other partners. L'accordo sul clima di Parigi va applicato interamente, dice Juncker, che prova anche a sopire la polemica nata dopo il presunto attacco di Trump ieri alla Germania in materia di commercio. Secondo Juncker, il presidente americano non avrebbe definito cattiva la Germania, ma avrebbe detto che esiste un problema col surplus commerciale di Berlino nei confronti di Washington. Proprio Trump ha twittato poco fa le sue priorità per il G7: crescita, terrorismo e sicurezza. Fonti della Casa Bianca parlano di una discussione robusta in vista soprattutto su clima e scambi commerciali. In mattinata vari bilaterali pre-summit, il presidente francese Macron ha incontrato la premier britannica May e quello canadese Trudeau, mentre Trump ha visto il premier giapponese Shinzo Abe. Per il momento da Taormina è tutto. Grazie dunque a Sergio Nava. Intanto, per andare proprio agli Stati Uniti e alle vicende che riguardano Donald Trump, Jared Kushner, il genero stretto consigliere del presidente, oggetto di interesse dell'FBI nell'ambito dell'inchiesta sul Russiagate, lo riferisce la NBC, citando diverse fonti ufficiali, gli inquirenti ritengono che abbia informazioni rilevanti per l'inchiesta, questo non vuol dire che è sospettato di alcun crimine. Al centro del G7 di Taormina lo avete sentito anche il tema del terrorismo. Ebbene, oggi almeno 23 persone sono morte, altre 25 sono rimaste ferite dopo che un gruppo di uomini armati ha attaccato un bus nel quale viaggiavano cristiani copti, lo riferiscono media locali. Le conferme sono arrivate poco fa da Al Arabiya. È un attacco avvenuto con dei Kalashnikov ed è avvenuto a Minia, nel sud dell'Egitto. L'analisi è di Ugo Tramballi. Ancora una volta in Egitto, ancora una volta i copti. La strategia dell'ISIS e dei suoi addentellati locali è chiara: colpire il 20% cristiano della popolazione egiziana perché sono infedeli, ma anche per scavare ancora più in fondo il fossato, in parte sotterraneo e in gran parte visibile, che da sempre divide la minoranza copta e la maggioranza musulmana sunnita del paese. Nel delta del Nilo, nelle periferie dell'immensa capitale, nel sud più povero, nella penisola del Sinai, ormai uscita dal controllo del governo. L'ennesimo attentato rende visibile anche la scarsa capacità di Abdel Fattah al-Sisi di garantire la sicurezza dell'Egitto. L'unica arma che il presidente ex generale sa usare è la repressione più dura verso qualsiasi forma di opposizione al regime, da quella dell'ISIS all'Islam moderato, fino ai giovani laici e democratici arrestati, torturati e spesso fatti sparire. Incapace di altro, il sistema autoritario e brutale egiziano che nega ogni spazio al dissenso è in realtà la più grande fabbrica produttrice, sia pure involontariamente, di terroristi. Questo è il quadro dunque dall'Egitto. Siamo alla morte di Laura Biagiotti, sarebbe un pezzo importante del nostro sistema della moda, una grande stilista. Giulia Crivelli, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Vai. Ma Laura Biagiotti era un po', è stata una pioniera in tantissime cose. Poi era nata nel 1943, quindi ancora con la Seconda Guerra Mondiale in corso, e a soli 22 anni, nel 1965, aveva creato la sua prima società di import-export, con la quale portava negli Stati Uniti all'epoca una collezione che proprio un grande distributore americano, che si chiamava Seventh Avenue Group, le aveva chiesto. Quindi pensate quanto avanti era. Poi lei tra l'altro era figlia di una figlia d'arte, perché sua mamma aveva un atelier. All'epoca insomma non c'erano i negozi come li conosciamo adesso, quindi chi aveva un buon budget per vestirsi andava in questi atelier, ma evidentemente Laura Biagiotti aveva già intuito che di lì a poco tutto si sarebbe trasformato. Era una futurista, se vogliamo, e lo dico perché la sua grande passione, aveva anche studiato archeologia, forse avrebbe voluto diventare archeologa, poi l'attrazione fatale per la moda l'ha portata appunto a lavorare prima con sua mamma e poi da sola, e la sua grandissima passione per l'arte la portò poi negli anni, insieme al marito Gianni Cigna, che poi è scomparso prematuramente nel 1996, a costruire una collezione di arte moderna e contemporanea incredibile, che prestava a tutti i musei del mondo con grandissima generosità. E nella fattispecie c'è anche una mostra a Londra, è no? Quasi un piccolo, insomma, un piccolo l'ultimo omaggio da viva che Laura Biagiotti ha fatto a questa grande corrente italiana del futurismo, perché a Londra, ed è la prima volta dal 2000 che Londra ha una mostra su Giacomo Balla, si è aperta il 4 aprile scorso e chi vuole potrà visitarla fino al 25 di giugno alla Galleria Estric, una mostra proprio dedicata a Giacomo Balla con 116 opere, ma pensate che la Fondazione Biagiotti Cigna ne ha più di 300. Grazie a Giulia Crivelli per questo racconto. Giulia Crivelli del Sole 24 Ore. Siamo stati a Londra, restiamo in Gran Bretagna, ma per notizie insomma più dolorose di una mostra di un grande artista italiano, le notizie che riguardano Manchester. Andiamo agli aggiornamenti. C'è un nuovo arresto nell'ambito delle indagini sull'attentato suicida di Manchester di lunedì scorso, che ha provocato 22 morti e decine di feriti al concerto di Ariana Grande. Al momento dunque sono 8 le persone arrestate dalla polizia, fra questi Ismail Abedi, 23 anni, fratello del kamikaze Salman Abedi, che secondo notizie di stampa si preparava da un anno all'attacco suicida. Lo scrive il Times, mentre il Guardian rivela che alcuni complici del terrorista sono ancora a piede libero. In corso anche nuove perquisizioni nel quartiere Moss Side a sud di Manchester, mentre la polizia cerca possibili complici dell'attentatore. Dopo le polemiche sulle fughe di notizie degli 007 e le rassicurazioni da parte del presidente americano Donald Trump, le autorità britanniche hanno ripreso a condividere le informazioni con Washington. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sul tema dei difficili rapporti tra gli 007 americani e quelli britannici, sentiamo l'analisi del venerdì del nostro Daniele Biacchessi. La storia del Novecento e quella più recente raccontano che tra servizi segreti americani e britannici c'è sempre stata piena sintonia, ma anche una certa rivalità operativa. È accaduto durante la Seconda Guerra Mondiale, quando l'Inghilterra di Churchill marciava alla pari della superpotenza americana contro il nazifascismo. È avvenuto poi nella Guerra Fredda, negli anni in cui la Gran Bretagna giocava un ruolo determinante nello scacchiere europeo. Il rapporto di collaborazione e di supremazia è poi proseguito anche nel conflitto contro lo jihadismo in Afghanistan e in Iraq e nell'alleanza contro ISIS in Libia e Siria. Scambio di informazioni sensibili, secretazione e desecretazione di documenti, rilevamento comune di obiettivi da colpire, messa in campo di piani geopolitici e militari. Dunque, Stati Uniti e Gran Bretagna hanno da sempre indirizzato i propri servizi segreti su una sorta di doppio binario. Piena sintonia nelle strategie e netta rivalità nell'azione. Non ci si deve quindi stupire se nel bel mezzo delle delicate indagini sulla strage di Manchester le due intelligence hanno poi smesso di scambiarsi informazioni per poche ore per riprendere lo stesso identico cammino. Anche oggi, nei giorni in cui identità e obiettivi politici rendono più ampie le distanze tra Trump e May. Così dunque Daniele Biacchessi, veniamo alla politica italiana. Il tema dei voucher, che rischia di creare parecchi problemi alla maggioranza, tanto da arrivare a far traballare il governo, ma sembra che ci siano modifiche in vista, mentre su questo tema interviene anche la CGIL. Vincenzo Miglietta per un punto. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno. Un tema, Simone, è quello della disciplina del lavoro occasionale, che si pensava accantonato con il decreto del governo che ha cancellato i voucher, ma che ora sta agitando la maggioranza e secondo alcuni potrebbe determinare, nel caso estremo, anche una chiusura anticipata della legislatura. Ma andiamo con ordine. La polemica nasce da un emendamento a firma PD che affiancherebbe al libretto famiglia per colf e badanti, già previsto dalle modifiche, la possibilità per le imprese fino a 5 dipendenti di utilizzare dei buoni lavoro. I paletti al loro utilizzo sarebbero diversi, ma di fatto assomiglierebbero ai voucher aboliti. Ipotesi questa già bocciata all'interno dello stesso PD dalla componente che non fa riferimento a Renzi, tipo Cesare Damiano, e bocciata soprattutto da MDP, la forza nata dalla scissione con il Partito Democratico. I bersaniani minacciano allora di non votare la manovrina e vedono nella scelta del PD la volontà di forzare la mano al governo per metterlo in difficoltà ed andare ad elezioni anticipate. Non è così, chiarisce prima il capogruppo Rosato, pronto a ritirare comunque la proposta. Quindi dallo stesso esecutivo il ministro Finocchiaro spiega: nessuna tensione con il PD, l'emendamento rispecchierà totalmente la volontà del governo sulla regolazione del lavoro occasionale. Molto critica però la CGIL: lo strumento previsto è identico ai voucher, ma la platea dei destinatari è più larga, dice Camusso, se reintrodotti ricorreremo alla consulta. È tutto, linea allo studio. Grazie dunque anche a Vincenzo Miglietta per questo aggiornamento. E ora una storia di cronaca. Una storia di cronaca che arriva da Pesaro, che riguarda un bambino di 7 anni che è gravissimo. Stava male da 2 settimane, ma niente antibiotici, e ora un bambino di 7 anni lotta tra la vita e la morte in ospedale ad Ancona per un'otite. Un batterio comunissimo che in caso di febbre e dolore un antibiotico avrebbe eliminato in 2 giorni. I genitori non si sono rivolti al pediatra curante, ma ad un omeopata che seguiva il bimbo dalla nascita e gli ha prescritto dei prodotti alternativi, già usati in precedenza e allora rivelatisi efficaci, hanno raccontato adesso i genitori. Questa volta però evidentemente si trattava di qualcosa di più grave e solo quando il bimbo non rispondeva più è stato portato all'ospedale di Urbino. Troppo tardi. I medici, attraverso un attacco, hanno scoperto i disastri fatti dal pus introdottosi già nel cervello e hanno predisposto il trasferimento ad Ancona, dove il piccolo è stato operato. Le condizioni restano gravi, hanno confermato dal nosocomio, mentre sulla vicenda sarebbe stata inviata una segnalazione alla procura competente. Annalita D'Ambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Su questa vicenda stiamo cercando anche di raggiungere qualcuno, un ospite magari dall'ospedale di Ancona o dall'ospedale di Pesaro. Vedremo se riusciremo a parlare con qualcuno nel corso della trasmissione. Siamo a chiudere questa prima parte, siamo con lo sport, siamo con il nostro Carlo Genta, che oggi potrete sentire ma non vedere perché andrà in diretta a tutti i convocati da Autopromoteca Bologna, manifestazione dalla quale eravamo in diretta ieri. Ciao Carlo! Ciao Simone, buongiorno a tutti. Beh, potranno vedervi qui ad Autopromotec. Certo, dal vivo, dal vivo. Bravo, e anche ad intervenire dal vivo per questa puntata di esterna di tutti i convocati in cui si parlerà tanto di Totti, come saprai. Insomma, stata questa cena ieri a 5 stelle, anzi a 3 stelle Michelin, per i compagni, solo i compagni, staff tecnico escluso, dirigenti esclusi. Totti ha regalato magliette firmate, c'è stato questo post di ieri su Facebook che ha fatto molta notizia, insomma il mistero si infittisce. Cosa farà il pupone dopo che avrà detto addio domenica con tutti gli onori dell'Olimpico? Non si riesce a rispondere a questa domanda, forse, nessuno lo sa e vale tutto. Forse lunedì lo sapremo. Senti, invece Valentino Rossi come sta, Carlo? Dunque, Valentino Rossi era avuto un incidente in motocross cascando in allenamento, molta paura, si tratta soltanto di una botta, di una forte botta al torace, si parla di dubbi sulla sua presenza al Mugello, gara fondamentale per il Mondiale, dipende da quanto dolore proverà, però proviamo ad essere ottimisti, al Mugello Valentino Rossi dovrebbe esserci. Comunque oggi parleremo tanto anche di motori perché abbiamo il solito appuntamento dopo il GR delle 15 con tutti i convocati Racing Team e quindi altro argomento all'ordine del giorno, Simone. Allora Carlo, ti risentiamo dunque a partire dalle 14. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia e iniziamo, visto che è venerdì, ragazzi, lo so che non si chiama Igor il russo, che si chiama Norbert Fehr, che non è russo, però ormai lo chiamiamo così, è noto in questo modo. Partiremo da là, partiremo dalle ricerche di Igor il russo che continuano ad andare avanti e lui non si continua a trovare. Tra le altre cose ci occuperemo anche poi nel corso del nostro giro per l'Italia del Cara di Mineo. A Cara di Mineo c'è stato un altro stupro, l'ennesimo stupro. Il procuratore di Caltagirone ha lanciato un allarme proprio su questo tema. Tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato del G7 di Taormina, dell'attacco ad un bus di cristiani in Egitto, della morte di Laura Biagiotti, della vicenda di un bambino di 7 anni che è in coma per un'otite perché i genitori lo curavano con l'omeopatia. Abbiamo parlato della polemica politica sui voucher e, come avete sentito, abbiamo parlato anche di sport. Siamo sempre in diretta anche sulla nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno. Siamo in diretta video, commenta qua e lo salutiamo, gli diciamo beato lui, Lefteris, che ogni giorno ci scrive dall'isola di Rodi dicendo che ci ascolta, beato lui. E veniamo appunto alle cronache che riguardano, nel nostro giro per l'Italia, le cronache che riguardano Norbert Fehr, meglio noto sui giornali italiani italiani e anche nei nostri titoli, come Igor il Russo. Daniele Predieri, cronista della Nuova Ferrara. Ciao Daniele, bentornato ai nostri microfoni. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, qualche ascoltatore scrive: ma io non ci posso credere, 1000 contro 1, ci deve essere un complotto dietro. Ma che complotto? Io credo che qua le forze dell'ordine non vedano l'ora di catturarlo, quest'uomo, no? Sì, ovviamente, però il problema è che non si riesce a trovare Igor il Russo. Il problema è proprio questo, sono 48 giorni ad oggi che lo stanno cercando, dall'8 aprile, tanto per ricordare ai vostri ascoltatori. 48 giorni e soltanto adesso, tutto lo spiegamento di forze, si pensa di ridurlo. A fine mese ci sarà un ridimensionamento, non si sa quanto, di quante unità. Il problema è che ovviamente non si hanno delle grandi informazioni, oggi meno che ieri, ecco, tra virgolette. Il fatto è che alcuni inquirenti cominciano a dire le cose che la gente ha sempre detto, sul fatto che si fosse cercato qui, ma in realtà potesse essere o da un'altra parte o potesse essere quantomeno coperto, nascosto, protetto da qualcuno. Anche perché un inquirente mi ha fatto una battuta, dice: questo non può campare per 48 giorni mangiando bacche e tuberi, questo è fondamentale. No, non c'è dubbio. L'altra alternativa è che possa essere, come ci scrive anche qualche ascoltatore, possa essere morto in un nascondiglio, però forse sarebbe stato trovato magari dai cani, no? Sì, assolutamente, questa è l'ipotesi che tutti hanno fatto anche fino all'inizio, però ripeto, al momento cioè, il disorientamento è assoluto, anche di noi cronisti, assolutamente, perché anche non è che ci sia più la copertura dei primi giorni dal punto di vista giornalistico, di notizie su Igor Ferrer, non è che ne scriviamo più di tante, anche perché, ripeto, passano i giorni ma senza nessuna novità. Prima c'erano questi avvistamenti, ritrovi di nascondigli oppure testimoni che sostenevano questo. Oggi, almeno da quanto ci risulta, non ci sono questi elementi, questi riscontri così importanti come ci raccontavano prima. Certo, qualche altro ascoltatore ci scrive: ma chi paga? E chi paga? Paghiamo noi, però è chiaro che questo è comunque un assassino pericoloso e quindi in qualche modo va ritrovato, ammesso che sia ancora in quelle zone. Tra l'altro, per chiudere, Daniele, lunedì, per far fronte, magari ne parliamo un po' più diffusamente lunedì, per far fronte alle preoccupazioni della popolazione locale, gli inquirenti, le persone che stanno lavorando alle ricerche incontreranno proprio la popolazione locale. No? Sì, assolutamente, c'è questo incontro fissato a Molinella dove sono chiamati tutti i sindaci dei quattro comuni interessati, che sono Budrio, Molinella, Porto Maggiore e Argenta. Però anche qui, se questo è il commento del cronista, questo mi lascia un commento, diciamo così, questo incontro qui viene diciamo, nella locandina è scritto sulla sicurezza del territorio, quando invece si parlerà solo e soltanto di Igor. Certo. Nel senso che questa è una zona in cui lui potrebbe ancora essere, e nel momento in cui potesse esserci una smobilizzazione o un ridimensionamento delle forze dell'ordine, bisogna capire che cosa dire alla gente, su cosa fare e che cosa dire. Certo, perché poi qua qualcuno ci scrive, e ti saluto, grazie a Daniele Predieri, cronista della Nuova Ferrara, sul giornale, sul sito del giornale trovate come sempre molte informazioni su tutto questo. Qualcuno dice: ronda i cittadini armati. Sì, poi però se becchi uno con l'addestramento militare, sai che gli fa le ronde dei cittadini armati. Anche su queste cose bisogna farci attenzione. Andiamo a Vasto, Francesco Menna, il sindaco. Buongiorno sindaco. Buongiorno. Allora, siamo rimasti di stucco di fronte a questo bando che è stato fatto dal comune per un addetto alla registrazione dati, collaboratore amministrativo contabile, un bando riservato ai disabili e che in effetti richiede un lavoro sedentario, cioè devi stare seduto là e inserire dei dati. E però tra i requisiti in questo bando riservato ai disabili si richiede la patente B. Ma cosa è successo? Ma io credo che si stia montando un caso sul niente, insomma, perché la giunta ha dato indirizzo in base a un fabbisogno di personale rilevato dagli uffici e ha dato indirizzo a fare i concorsi, in particolare il concorso per disabili. Si è seguita la normativa insieme a quello che prevede la legge, il centro per l'impiego, e credo che sia fatto un bando così come si fa in tutti i comuni d'Italia, tant'è che tanti comuni d'Italia hanno fatto questo bando, così come il Comune di Vasto. Probabilmente qualcuno, in particolare i consiglieri di opposizione, qualche consigliere di opposizione ci tiene a montare un caso. Qualche mese fa, diversi mesi fa, si è fatto un altro bando sui disabili dove rispetto a quelle mansioni non era prevista questo requisito. Sì, ma a che serve la patente B per inserire i dati? Ma guardi, lei sa meglio di me, il sindaco non fa i bandi, né tantomeno la giunta, sono le leggi che predispongono i requisiti di bando, le leggi nazionali, sono le cosiddette normative in essere. Se io dovessi, come qualche consigliere di opposizione, andare a un dirigente a dire di togliere un requisito da bando, io commetto un abuso d'ufficio e giammai io farò una cosa del genere. Per cui ritengo che se le leggi sono seguite, sono regolari, cosa che sicuramente è così, visto che il centro dell'impiego lo attesta, della provincia di Chieti, la normativa lo attesta, tanti comuni in Italia hanno fatto così e se le va su Google può tranquillamente rilevarlo. Io ritengo che veramente invece di alcuni consiglieri, invece di rilevare che questa città... Sì, però mi scusi Menna, ho capito, mi scusi Menna. Allora, la cosa l'ha tirata fuori un consigliere d'opposizione e va bene, e questo fa parte della battaglia politica, però c'è il punto proprio, è il punto sostanziale, capisce il problema, non è la questione che l'abbia sollevato un consigliere d'opposizione, ci interessa molto relativamente la battaglia politica. Di Vasto è in sé il fatto che ci sia un bando per i disabili che prevede il possesso della patente, tra l'altro appunto per un lavoro di inserimento dei dati. Insomma, come viene uno in comune a inserire i dati, può venire con qualsiasi mezzo, no? con i mezzi pubblici, accompagnato da qualcuno, chi se ne importa. Sì, io dico questo, che si seguono le leggi in materia dei concorsi pubblici, così come e quindi la legge prevede come requisito il fatto che abbia la patente. Io non fa il sindaco i bandi, cioè non si deve commettere l'errore. Ma ha chiesto chiarimenti, ha chiesto chiarimenti ai suoi uffici su questo? Certo, ma non solo, anche al centro per l'impiego della provincia, i quali hanno attestato, non solo hanno attestato la regolarità di questa procedura, ma addirittura hanno mandato bandi di tanti comuni d'Italia che rispetto a casi analoghi hanno fatto le stessissime procedure. Allora, mesi fa si è fatto un bando sempre per disabili per altra mansione che non prevedeva questo requisito, perché la normativa non prevede questo requisito. Ma se qualcuno, come continua a sostenere, dice che il sindaco deve andare agli uffici per far togliere questo requisito, sbaglia, perché non posso commettere una... Se la normativa prevede così, guardi, io confesso su questo, Menna, confesso la mia ignoranza, mi andrò ad informare e semmai ci riserviamo di richiamarla la settimana prossima. Grazie Francesco Menna, sindaco di Vasto, per essere stato con noi. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati. Ci scrive Luigi, ascoltatore affezionato, sulla nostra pagina Facebook dalla quale stiamo andando in diretta. Se ci occupiamo del caso di Inzago, quello del quale avevamo parlato ieri, lo ricorderete, il sindaco che ha messo una multa di 1000 euro ai partigiani perché il corteo del 25 aprile è partito con un quarto d'ora d'anticipo, e grande polemica in questo paese del milanese. Stiamo cercando il sindaco di Inzago, non l'abbiamo ancora raggiunto, vedremo se riusciremo a pescarlo nel corso di questa trasmissione, come andrà a finire questa vicenda, come si diceva, la borsa. E poi riprendiamo dal Cara di Mineo, che continua ad essere, ci spiace dirlo così brutalmente, una vergogna nazionale. Parleremo col procuratore di Caltagirone, perché ieri nel Cara di Mineo, nel centro di accoglienza che ben conoscete, del quale vi abbiamo raccontato, c'è stato un altro stupro. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono Simone Spezia, i nostri titoli: al via il G7 di Taormina, terrorismo, immigrazione e clima al centro, il summit più difficile, dice Tusk. Un consigliere di Donald Trump poco fa ha detto: non so che cosa accadrà. Attacco ad un bus di cristiani in Egitto, almeno 23 le vittime e 25 i feriti. Prima di Pasqua, lo ricorderete, c'erano stati altri due attentati contro la comunità copta. È morta la stilista Laura Biagiotti, la sua griffe fu la prima a sbarcare in Cina. Ieri il malore e la dichiarazione di morte cerebrale. Nelle Marche, un bambino di 7 anni in coma per un'otite, non prendeva antibiotici da 4 anni, dicono i genitori, è stato curato con l'omeopatia. La borsa. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta... Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, prima di andare a parlare del CARA di Mineo e di quello che è successo nelle scorse ore, della denuncia del procuratore, andiamo in provincia di Milano, a Pioltello. Beh, forse la storia l'avrete letta sui giornali. Dopo l'attentato di Manchester si è diffusa la voce, partita da una televisione locale, che all'interno di un bar di Pioltello si fosse festeggiato. È un bar di proprietà di una persona di origine marocchina. È successo che poi qualcuno ha preso sul serio questa notizia e ha incendiato di fatto la sala cinesca di questo bar, ha fatto una specie di piccolo attentato nei confronti di questo bar. Ivonne Cosciotti, sindaco di Pioltello, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, più o meno è andata così, no? Sì, sì, certo, è andata così perché si è da una non notizia, perché in realtà questo giornalista su questa TV nazionale, devo dire, ha dato questo sentito dire. Consideri che Pioltello è una città che ha 37.000 abitanti, di cui 10.000 stranieri, quindi parliamo di una città difficile, alle porte di Milano, dove il discorso dell'integrazione e dell'accoglienza comunque è un discorso che viene fatto da anni, ma con le evidenti difficoltà dei numeri che le sto dicendo. E in questo frangente si è pensato bene di dare adito a quella che era forse un'impressione, non si sa, perché poi le forze dell'ordine hanno indagato e non c'erano riscontri in questa notizia, ma il risultato vero è stata la notizia che l'altro giorno abbiamo avuto, che è stato dato fuoco alla serranda del bar. Una vicenda che volevamo sottolineare anche per capire come, che danni possono fare le informazioni false quando iniziano a circolare, no, Cosciotti? Assolutamente, certo, perché si è creato un clima anche di razzismo, ma vorrei dire questo: è evidente che in una città come la mia le fatiche dei cittadini, anche italiani, sono tante, perché bisogna comunque adeguarsi. Considerate che da Pioltello vivono 100 etnie diverse, quindi quanti usi e costumi diversi convivono, tra l'altro in due quartieri in particolare dove c'è questa alta concentrazione. Quindi è faticoso, è vero, anche per gli italiani vivere in alcune situazioni, ma in un contesto così, dove da anni si lavora per l'integrazione, dove si fanno lavori nelle scuole eccezionali, dove abbiamo fatto proprio sabato scorso una festa di 100 colori per le 100 etnie, dove italiani e stranieri hanno festeggiato insieme, in questo frangente viene raccontata una falsità di questo tipo, che ha innestato un meccanismo razziale che, ripeto, magari era assopito, ma ha dato dei risultati devastanti. Grazie Ivonne Cosciotti, sindaco di Pioltello Limito, e noi continuiamo ad occuparci di immigrazione. Per tornare al CARA di Mineo, ve l'abbiamo accennato poco fa, c'è stata l'ennesimo stupro, l'ennesima violenza sessuale, questa volta di un uomo pakistano ai danni di una donna nigeriana. Siamo in linea con Giuseppe Verzera, che è il procuratore di Caltagirone. Dottor Verzera, buongiorno, bentornato ai nostri microfoni. Allora, lei ha detto ieri le donne ormai hanno paura all'interno del CARA. Ma noi abbiamo registrato numerosissimi episodi di stupri che si sono verificati all'interno della struttura, alcuni addirittura stupri di gruppo che hanno impegnato non poco il nostro ufficio nell'individuazione anche dei responsabili. Il CARA è un problema, perché 3.200 persone, ritengo ad oggi sia questo il numero, non è gestibile da un contingente di forze di polizia che stazionano in una misura di 20 persone a turno, perché quella è una vera e propria città. Quindi etnie contrapposte che stanno nello stesso luogo, poi degenerano in tutta una serie di reati che il mio ufficio negli ultimi 2 anni ne ha iscritti almeno 1.000, oltre 1.000. 1.000 reati? Sì, 1.000 procedimenti penali sono stati aperti per fatti commessi all'interno del CARA. Non è una struttura gestibile, 3.500 persone non sono gestibili da da un circondario che è limitato noi siamo una procura piccola, non è che siamo una procura certo. enorme, non abbiamo risorse dell'altro mondo, quindi nel momento in cui mandiamo uomini dal commissariato, dall'arma dei carabinieri, sguarniamo il territorio, ecco perché questo ha determinato l'escalation di reati comuni che sono commessi, perché proprio il territorio non è controllato adeguatamente come dovrebbe essere, perché tutte queste forze di polizia sono destinate a fare ordine pubblico all'interno del CARA. Sì, la città di Mineo ha circa 5.000 abitanti, quindi questo per darvi la misura, per dare la misura anche ai nostri ascoltatori, insomma 3.000 persone all'interno del centro, 5.000 persone che abitano il luogo, il comune al quale il centro fa riferimento. Di questi 1.000 reati siete riusciti a fare un calcolo quante siano le violenze sessuali o i tentativi di violenza sessuale, procuratore? Ma tante violenze sessuali, tantissime lesioni personali, tante rapine, furti, risse che non finiscono mai, proprio perché ci sono etnie contrapposte che stanno nello stesso centro, quindi ci vuole pochissimo perché queste persone poi vanno ad andare in rissa. Procuratore, le voglio chiedere questo in chiusura. C'è un tema sicuramente di uomini, c'è anche un tema di come viene gestito tutto questo, mi sembra di capire, no? Cioè di come viene gestito il CARA in sé e il sistema di accoglienza. Ma guardi che il CARA è una struttura assolutamente efficiente. Il problema è che i numeri non sono gestibili dagli uomini di cui noi abbiamo a disposizione, questo è il problema. 3.500 persone non possono gravare, cioè i migranti in Italia non so quanto siano, però Mineo che ha 4.000-5.000 abitanti non può avere accanto un centro accoglienza richiedente asilo che sono 3.500. Cioè c'è una città parallela di richiedenti asilo che è quasi quanto la popolazione della città di Mineo. Quindi quello di cui avreste bisogno sono più uomini sostanzialmente, procuratore? Più uomini, ma soprattutto meno persone ospitate all'interno della struttura, perché non sono governabili. È impossibile, quella è una città assolutamente incontrollabile. Ci sono, non so se lei c'è mai stato. No, non ci sono mai stato, c'è stata una nostra collega Valentina Furlanetto. Ecco, è una vera e propria città, non è controllabile, ci sono i bazar, c'è la mensa, c'è gente che va in giro, non è controllabile. Quindi quello che succede là dentro dovrebbe presupporre un contingente di forze di polizia imponente. Che noi quindi, non abbiamo purtroppo. Quindi più uomini e meno persone dentro il CARA. La ringrazio, grazie a Giuseppe Verzera, procuratore di Caltagirone, per essere stato con noi con un po' di ritardo. Il traffico, Mario Platero, ci sentiamo alla fine per i saluti.